Bene, dunque, visto che entro il 15 maggio deve essere formalmente terminato il programma, io devo ancora trattare, se non ricordo male, tre autori, vale a dire Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale e Umberto Saba. Si tratta di tre autori molto diversi l'uno dall'altro. Salvatore Quasimodo viene normalmente ricondotto al cosiddetto ermetismo degli anni 30, sebbene egli non si sia mai autodefinito ermetico e abbia anzi espresso riserve relativamente a questa definizione. Ecco, mi raccomando, Eugenio Montale non è assolutamente definibile come ermetico, anzi, egli stesso tenne a chiarire espressamente la differenza che c'era fra la propria poetica e poesia e quelle ermetiche, molto più rarefatte, astratte, evocative, indefinite, ecco, quelle ermetiche, molto più legate invece all'oggetto, all'immagine concreta, anche se carica di valori simbolici, la poesia di Montale. Ecco, ancora diverso il caso di Umberto Saba. Solitamente viene citata la poesia onesta di Umberto Saba, la celebre frase di Umberto Saba: cosa resta da fare ai poeti? Ai poeti resta da fare la poesia onesta. Viene spesso citata in modo generico, anche a sproposito, questa definizione di poesia onesta. Ad ogni modo, Umberto Saba era molto lontano dall'eccessivo intellettualismo, a suo parere, della poesia ermetica. Al contrario, la poesia di Saba aveva un carattere, se vogliamo, realistico, insomma, molto vicino alla vita di tutti gli uomini di tutti i giorni, come sosteneva lo stesso Saba, ma nello stesso tempo una poesia che si rifaceva espressamente alla grande tradizione italiana, da Foscolo a Carducci, no? Amai trite parole che nessuno osava, mi incantò la rima, fiore, amore, la più antica, difficile del mondo, dice Saba, rivendicando a sé la possibilità di usare uno stile che i più, dopo le avanguardie e dopo l'ermetismo, consideravano antiquato. Ma andiamo con ordine. Salvatore Quasimodo, nato in Sicilia, siciliano come Pirandello, entrambi premi Nobel per la letteratura, ecco, entrambi siciliani, emigrato a Milano, geometra, ecco, cioè, Quasimodo era geometra, Montale invece era ragioniere, nessuno dei due si laureò, quindi pensate un po'. Due premi Nobel per la letteratura, Quasimodo geometra, Montale ragioniere, questo per dire quanto contano questi pezzi di carta, insomma, veramente poco, non sono indicativi di granché. Ma no, ecco, si trasferì. Montale non fece mai il ragioniere di mestiere, Quasimodo invece fece proprio il geometra per più di un decennio, credo, tipico emigrante, no? Dalla Sicilia si trasferì a Milano per fare il geometra ed esercitò effettivamente il mestiere di geometra comunale, coltivando la poesia quasi in segreto. Segrete sillabe nutro, scriveva Quasimodo. Quindi anche Quasimodo fu anche un poeta estraneo alla geografia letteraria fiorentina, di solito si dice ermetismo fiorentino degli anni 30, Questo è vero per il primo Luzi, per l'opera giovanile di Mario Luzi, non lo è necessaria, anzi non lo è per quella di Quasimodo, che fu molto apprezzato dagli ermetici, insomma gli ermetici lo considerarono uno di loro, ma Quasimodo non accettò mai esplicitamente questa definizione, sebbene la sua opera sia considerata comunque, in particolare Oboe Sommerso, si è considerata proprio tipica della corrente ermetica. Dunque, per quanto riguarda la poetica ermetica, io ho caricato nello spazio web un brano della celebre conferenza di Carlo Bo intitolata Letteratura come vita. Adesso bisogna andare a ripescarla qua. Ci sarà sicuramente anche sul vostro libro, non so se proprio quell'estratto o un altro. Comunque, ecco, è un testo fondamentale questo. Qui sono riportate soltanto due paginette. Ecco, la letteratura, dice Carlo Bo, è una condizione, non una professione. Questo è letteralmente vero. Se qualcuno di voi ha la malaugurata idea di scribacchiare, come fanno tanti, come faccio anch'io, beh, insomma, sappia che anche dal punto di vista pratico è difficile farne un mestiere, insomma. Ma al di là di questo fatto così meramente economico, c'è anche proprio un aspetto, soprattutto un aspetto intellettuale, spirituale. La letteratura è una condizione esistenziale, non è una professione, non è un mestiere, così è una profonda vocazione. Ecco, vita e letteratura si fondono proprio, no? Nell'atto creativo. E gli ermetici distinguono fra tempo minore e tempo assoluto. Il tempo minore è quello degli eventi così, terreni, gli eventi della cronaca e della storia, gli eventi. Il piano, diciamo, evenemenziale, come si dice, il piano immanente. Ecco, il tempo che veramente conta e nel quale vive la poesia è invece il tempo assoluto, no? Un tempo trascendente, un tempo che collima e si risolve, insomma, nell'eternità. Si potrebbe citare Platone, no? Il tempo come immagine mobile dell'eternità. C'è una forte ascendenza platonica dietro la poesia di Mallarmé e poi dietro quella degli ermetici che proprio Mallarmé presero a modello. Di solito per un letterato si trattava di equilibrare nei tempi, di svolgere cioè il mestiere, la letteratura nelle pause della vita. Noi a questa letteratura non abbiamo mai creduto, rifiutiamo una letteratura come illustrazione di consuetudine. Di consuetudine e di costumi comuni aggiogati al tempo. Insomma, la letteratura non deve avere di mira la contingenza, diciamo, contrariamente a ciò che sosteneva ad esempio Goethe, il quale diceva che tutta la poesia, anche la grande poesia, è sempre e comunque poesia di occasione, cioè legata ad una circostanza ben precisa. Anche se capace di trascenderla e di attribuirle un valore esemplare, un valore assoluto. Gli ermetici invece dicono che no, la letteratura è un valore assoluto, la parola poetica è come il verbo, come la parola con la P maiuscola, insomma, è una parola quasi divina, insomma, una sorta di verbo incarnato, o meglio, verbo disincarnato. Qualcosa di inafferrabile, di impalpabile, di ineffabile. Quando sappiamo che è una strada, è forse la strada più completa per la conoscenza di noi stessi, per la vita della nostra coscienza. Insomma, una sorta di rivisitazione del principio, no? Del nosce te ipsum, no? Della sapienza classica. A questo punto è chiaro come non possa esistere un'opposizione fra letteratura e vita. Per noi sono tutte e due e in uguale misura strumenti di ricerca e quindi di verità. mezzi per raggiungere l'assoluta necessità di sapere qualcosa di noi, o meglio di continuare ad attendere con dignità e con coscienza una notizia che ci superi e ci soddisfi. Quindi una sorta di consapevolezza trascendentale, una coscienza di se stessi che però non è limitata all'individuo e alla circostanza contingente, ma si colloca su di un piano che si potrebbe definire metastorico. Interessante, anzi necessario, ricordare che questa conferenza fu pronunciata nel periodo fascista. Come al solito non ricordo l'anno, 1936, 1938. Comunque fu raccolta nel libro, in questo libro importante, Otto Studi, 1939. Quindi ecco, gli ermetici non erano esplicitamente ed espressamente antifascisti, non lo era nemmeno Montale del resto, o meglio, Montale sì, perché Montale firmò il manifesto degli intellettuali antifascisti promosso da Benedetto Croce. Gli ermetici non erano esplicitamente antifascisti, anche se di fatto venivano considerati tali. Gli ermetici teorizzavano e praticavano la cosiddetta assenza. Ecco, questa parola assenza ha un'importanza fondamentale sia dal punto di vista del lessico poetico che dal punto di vista delle implicazioni politiche e ideologiche. Insomma, gli ermetici sostenevano che la poesia fosse più importante della politica, fosse più importante e superiore rispetto alla storia, agli eventi terreni. Per questo implicitamente rifiutavano qualsiasi coinvolgimento con qualsiasi schieramento politico, quindi anche con il fascismo. Beh, in questo la loro posizione è un po' simile a quella di Montale, il quale dopo la guerra dichiarò che anche se ci fosse stata la possibilità di pronunciarsi esplicitamente contro il fascismo, e ovviamente questa possibilità non c'era, data la censura, data l'ovra, data. Comunque, scrisse Montale dopo la caduta del fascismo, anche se ci fosse stata la possibilità di esprimere posizioni antifasciste, io comunque non le avrei espresse e mi sarei sempre e comunque occupato soltanto di poesia. Questo atteggiamento di disimpegno ideologico potrebbe anche essere criticato, potrebbe anche essere considerato come una forma, se non di viltà, perlomeno di indifferenza. C'erano i cosiddetti bigi, cioè quelli che non erano né fascisti né antifascisti, venivano chiamati i bigi, cioè grigi sarebbero quelli che non si capiva bene da che parte stessero, ma qualcuno potrebbe considerarla una forma di viltà o di fuga dalla realtà, in parte forse lo era. Lo stesso Carlo Bo, dopo il 1945, sottolineò anche i limiti di questo atteggiamento, le ambiguità di questo atteggiamento di assenza. Dall'altro lato, va comunque riconosciuto a questi letterati il merito di aver rivendicato, di aver difeso l'autonomia dell'esercizio letterario e della scrittura poetica in un'epoca in cui i condizionamenti ideologici erano decisamente forti. Questo vale anche per Montale, il quale fu, ecco, più marcatamente antifascista, firmò il manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce. Benedetto Croce, il cui antifascismo peraltro era un antifascismo liberale, non era come quello di matrice marxista, ecco, professato invece da Gramsci, che lo pagò con il confino, con la prigionia, e infine indirettamente con la morte, mentre Benedetto Croce, sì, beh, le camicie nere ovviamente diedero fastidio a Benedetto Croce, andarono a casa sua, la misero tutta sottosopra, ma si trattava di una figura di un tale prestigio internazionale, anzi mondiale, che insomma non potevano torcergli un capello, anche perché era un ricchissimo possidente terriero, no? Benedetto Croce. Dunque, noi crediamo alla vita nella stretta esatta misura della letteratura, cioè sotto quell'angolo di luce concesso da un'attenzione quasi esasperata e decisivo per una spiegazione, per una condizione di reperibilità. Ecco, questa scrittura ermetica, sia nella critica, nella saggistica, che nella poesia, è una scrittura tipicamente ardua, difficile. Criptica a volte. La definizione di poesia ermetica, come credo di avervi già detto, fu introdotta in accezione negativa. Un importante critico, sì, ve l'ho già detto, Francesco Flora, Flora come flora e fauna, insomma, introdusse questa definizione in senso negativo, come non del tutto negativo, ma insomma un po' negativo, un po' riduttivo, si diceva, questa poesia ermetica, già così difficile, criptica, volutamente, ed è un po' lo stereotipo che continua a colpire tutta la poesia contemporanea. Si dice, ma questi poeti che scrivono non si capisce un accidente, poi non usano neanche la rima, poi questi versi liberi, ma li saprei scrivere anch'io, insomma, quelle solite stupidaggini che si dicono, e in parte continuano a riflettere questo stereotipo. La nostra letteratura sale dalle origini centrali dell'uomo, ha troppa memoria per risolversi in una passione che subisce i nostri umori, le nostre stagioni, la nostra povera polemica di viventi. Questa parola memoria era già una parola chiave per Ungaretti, no? Innocenza e memoria. Memoria, e qui direi proprio nel senso platonico di anamnesis, no? La memoria è come un riportare alla luce, così, dare voce a degli archetipi assoluti, così, prenatali. Questo, ecco, qui viene introdotto un altro motivo importante, cioè la fusione di critica e poesia, visto che entrambe sono espressione di una parola assoluta, trascendente, sovrastorica, insomma, sono come emanazioni, no? In senso neoplatonico, di questa parola superiore, assoluta. E allora la critica da una parte e la poesia dall'altra sono come le due facce di una stessa medaglia. In questo senso la letteratura tende all'identità, collabora alla creazione di una realtà, che è il contrario della realtà comune, all'incarnazione di un simbolo, a questa esistenza sconfinata nel tempo e senza possibilità di storia, priva di ogni struttura. Ecco, e qui chiaramente siamo molto lontani dallo storicismo di Benedetto Croce, perché qui si parla di una poesia così assoluta, metatemporale, metastorica. Quando si parla di letteratura come vita, non si chiede che un lavoro continuo e il più possibile assoluto di noi in noi stessi. Una coscienza interpretata quotidianamente nel giuoco delle nostre aspirazioni, dei sentimenti e delle sensazioni. Insomma, una esplorazione dell'interiorità dell'uomo, che però è un'interiorità assoluta, una interiorità trascendente, un po' come diceva Sant'Agostino, no? Che era molto amato dagli ermetici: in interiore homine habitat veritas, no? Anche San Paolo contrapponeva l'uomo interiore all'uomo esteriore, cioè il corpo spirituale al corpo animale, cioè l'essenza spirituale immateriale dell'uomo, che viene contrapposta alla sua esistenza storica così contingente, transeunte. Dice: ma qui è un vero amore della vita che non ci lascia mai dimentichi di noi stessi e non permette una vacanza e il divertimento. Di vacanza nel senso etimologico di vuoto, insomma, questa vocazione letteraria deve essere una vocazione totalizzante, che coinvolge tutto l'individuo, insomma, che non è soltanto uno svago occasionale. Allo spettacolo che abbandoniamo, e nel no c'è tutto il carico di responsabilità, di dolori, di tristezze che rappresentano l'attesa dei nostri giorni, viene opposta una disciplina di vita, una condizione senza vacanze di inseguimento assoluto. Ecco qui l'antifascismo, se vogliamo, anche se non è esplicitamente pronunciato, comunque emerge perché lo spettacolo, qual è lo spettacolo che abbandoniamo evidentemente, no? Le parate di regime, la retorica anche del regime fascista, insomma, no? Lo spettacolo che abbandoniamo. Questa ricerca di interiorità, questo ripiegamento che potrebbe apparire individualistico o intellettualistico, in realtà era una difesa della libertà dell'uomo di fronte a questi mostruosi organismi e ingranaggi, ecco, totalitari, pur con tutti i limiti del disimpegno ideologico, perché il disimpegno ideologico, cioè l'artista, lo scrittore che dicono non me ne importa nulla della letteratura, non me ne importa nulla della politica, della storia, della cronaca, della contingenza, no, io vivo nella dimensione eterna della letteratura, della bellezza, dell'arte, è un atteggiamento ambivalente, da un lato una rivendicazione di libertà, dall'altro è anche una forma di egoismo, se vogliamo, molto borghese, ecco. Ma nel caso di Montale, poi questo antifascismo, o questo afascismo, forse è meglio parlare di afascismo, ebbe anche delle ripercussioni pratiche, perché come vedremo, a causa della mancata iscrizione al partito fascista, Montale perse la sua unica fonte di sostentamento, cioè l'incarico di direttore del gabinetto Vieusseux, scritto Vieux-Seux, che non erano servizi igienici, insomma, non era un cesso pubblico, anche se Montale ironicamente lo chiamava WC Vieux-Seux, no, nelle lettere private. Era un'importante istituzione culturale fiorentina, fra l'altro proprio il gabinetto Vieux-Seux nell'Ottocento era il luogo in cui si ritrovavano i cattolici liberali, ma non solo, avvenne lì l'incontro fra Leopardi e Manzoni, l'unico incontro fra Leopardi e Manzoni, insomma, un luogo culturale importantissimo, insomma, nella storia d'Italia. Esiste ancora, fra l'altro, il gabinetto Vieusseux, viene pubblicata la rivista, la nuova antologia che esiste da tempo immemorabile, insomma, pubblicazione di grande prestigio, anche se insomma ormai non la legge più nessuno, ma insomma, la leggeranno forse 50 persone in tutta Italia, insomma, a me ogni tanto capita fra le mani, ma comunque vabbè, praticamente, dunque, tornando a noi, ecco, la poesia di Quasimodo. Allora, io ho caricato, come al solito, alcuni testi che trovate poi in quasi tutte le antologie degne di tal nome, cioè poche, ma insomma. Ecco, la poesia di Quasimodo intitolata semplicemente Parola. Ah sì, questa ve l'ho messa lì senza commento, però, perché appunto l'ho presa dalla letteratura italiana Einaudi. Ho anche infranto il copyright, anzi no, perché è per motivi scolastici, non è per ragioni, non ha scopo di lucro, diciamo. Anche perché chi se la compra la poesia, insomma, ormai non c'è pericolo. Comunque, la parola, ecco, di Quasimodo, tratta da Oboe sommerso, raccolta considerata tipica dell'ermetismo, anche se Quasimodo avrebbe detto: no, non c'entro niente, io con gli ermetici non li conosco neanche. Ma dice: tu ridi che per sillabe mi scarno, e curvo cieli e colli, azzurra siepe a me d'intorno, e stormir dolmi, e voci d'acque trepide, che giovinezza inganno con nuvole e colori che la luce sprofonda. Ti so, in te tutta smarrita alza bellezza ai seni, s'incava ai lombi e in soave moto s'allarga per il pube timoroso e ridiscende in armonia di forme ai piedi belli con 10 conchiglie. Ma se ti prendo, ecco, parola tu pure mi sei e tristezza. Qui. Il poeta si rivolge alla donna amata, alla fanciulla amata, ma nello stesso tempo celebra il valore della parola poetica. Lo celebra in modo, se vogliamo, ambivalente, perché la parola è sì il valore fondamentale per il poeta. Il poeta vive per la parola, per per la scrittura, ma nello stesso tempo la parola è qualcosa di immateriale, qualcosa no, parola, parole, parole, poi c'era anche la canzone, parole, parole, parole, parole. Anche in Shakespeare, no? Cioè, quando chi è lì? Cos'è Polonio lì che chiede ad Amleto, o forse non era, comunque un tizio chiede ad Amleto: ma cosa stai leggendo? E Amleto risponde: words, words, words, cosa vuoi che stia leggendo? Parole, parole, parole, sto leggendo delle parole. Cioè, il testo è sempre qualcosa di immateriale, no? Di qualcosa che svanisce, insomma. La parola non è la cosa. E ora qui c'è il corpo reale della fanciulla che viene anzi descritto con vibrante sensualità, no? Di solito si dice, ma è poesia ermetica, così astratta, così intellettualistica, così no, un po' così simile al dolce stil novo, così troppo platonica, troppo. Invece qui viene descritta, d'accordo, con toni che fanno pensare un po' ad una bellezza rinascimentale, non so. Ai piedi belli con 10 conchiglie, qui non so, viene in mente un po' Botticelli, la nascita di Venere, queste cose. Ma ci sono anche dei dettagli, no? Alza bellezza i seni, si allarga per il pube timoroso, insomma, ci sono anche parole che delineano un campo semantico insomma, legato alla sensualità. Ecco, nello stesso tempo ci sono, vedete, nei primi versi del testo degli stilemi petrarcheschi, perché petrarcheschi anche leopardiani, no? Curvo cieli e colli, azzurra siepe a me d'intorno, stormir dolmi e voci d'acque trepide. Qui siepe e stormire, no? Immediatamente fanno pensare all'infinito di leopardi, ma prima ancora, anche come effetti di suono, vengono in mente tratti petrarcheschi, no? L'aura soave che fra verdi fronde, mormorando a ferir nel volto, viemme, fammi risovenir, quando amor viemme, le prime piaghe, si dolci profonde. Qui anche i suoni, proprio, no? Intorno stormir trepide, danno azzurra, danno proprio il senso del vibrio, dello stormire, no? Sembra quasi di vedere queste foglie che tremolano al vento. Dunque, altri testi, ecco, Obo e sommerso, il testo che dà il titolo all'omonima raccolta, che viene considerato un tipico esempio di poetica e poesia ermetiche. Di per sé la parola oboe dà l'idea di qualcosa di cupo, e anche il suono dell'oboe è un suono profondo, cupo, quasi cavernoso, no? E questo senso di profondità, di cupezza, di scavo proprio interiore, pervade tutto il componimento. Avara pena tarda il tuo dono in questa mia ora di sospirati abbandoni. Un oboe gelido risillaba gioia di foglie perenni, non mie, e smemora. In me si fa sera, l'acqua tramonta sulle mie mani erbose. Ali oscillano in fioco cielo labili, il cuore trasmigra ed io son gerbido, cioè fertile sarebbe, e i giorni una maceria. Questo è un tipico esempio della cosiddetta poesia ermetica. Così a prima vista uno dice, ma che roba è? Non si capisce niente, cosa sono parole senza senso, buttate lì. Ma appunto, quando ci si avvicina alla poesia in generale, alla poesia contemporanea, a questa poesia ermetica in particolare, cosiddetta ermetica, insomma, in particolare, bisogna abbandonare fin dall'inizio la pretesa di attribuire alle parole un significato preciso e univoco. Ecco perché i testi invalsi sono una grandissima cretinata. Nei testi invalsi, non so, vi danno un testo come questo, poi ci sono le domandine: che cosa esprime il poeta? A, il dolore per la perdita della persona amata, B, il dolore per la perdita alla lotteria, C, il dolore per sto che cavolo, D, quel che insomma. I testi invalsi sono una cretinata proprio per questa pretesa di attribuire un significato univoco anche alla poesia, che per definizione non ha un senso e non vuole avere, non può avere un senso univoco, no? I miei versi hanno il senso che loro si dà, diceva Paul Valéry, ma i deficienti del ministero che fanno i testi invalsi non hanno probabilmente mai sentito nominare Paul Valéry. Vabbè, comunque. Avara pena tarda il tuo dono in questa mia ora di sospirati abbandoni. E uno mi dice: fai la parafrasi, ma chi mi chiede di fare la parafrasi è un cretino. Cosa c'è da parafrasare? Cosa si parafrasa? Qui non c'è niente da parafrasare. Al massimo si può fare un commento, no? Sospirati abbandoni, no? Avara pena tarda il tuo dono, insomma, un senso di malinconia, di sfiducia, di abbandono, di ripiegamento interiore. Un oboe gelido risillaba gioia di foglie perenni. Qui c'è la contrapposizione fra la profondità e la cupezza quasi funebre del suono dell'oboe, per di più sommerso, e qui viene in mente un'analogia musicale, semmai, no? La cathédrale engloutie di Debussy, uno dei preludi di Debussy, cioè quegli accordi così cupi, così profondi. Anzi, vi metto anche in didattica, se mi ricordo. La cathedrale engloutie, suonata da Benedetti Michelangeli, così, insomma, dice molto di più, ecco, Debussy suonato da Benedetti Michelangeli, di queste quattro cose che posso dirvi io, ma ecco, gioia di foglie perenni, non mie e smemora, gioia di foglie perenni dà l'idea di una giovinezza sempreverde, immortale, duratura, eccetera. Foglie non mie, però, quindi una sorta di straniamento, tipico esempio di straniamento, di spossessamento dell'io lirico. E smemora, questo verbo viene usato in senso assoluto. Cosa vuol dire smemora? In generale si allude in modo quasi impersonale ad una perdita di memoria, ad uno smarrimento, ad uno stordimento, ad uno straniamento. In me si fa sera, ecco, tipica metafora. Cosa vuol dire in me si fa sera? Scende la sera dentro di me, come per dire, no? Avverto un senso di malinconia. Qui viene in mente un po', se vogliamo, Dante, no? Era già l'ora che volge il disio ai naviganti, intenerisce il cuore, lo di che han detto ai dolci amici addio. L'acqua tramonta sulle mie mani erbose. In realtà l'acqua non tramonta, casomai tramonta il sole, poi le mani erbose, e qui si può pensare che implicitamente le mani del poeta vengano paragonate al letto erboso di un fiume, no? Letto erboso su cui scorre l'acqua trasparente, acqua su cui però si allunga, si estende l'ombra della sera. Ecco, si potrebbe immaginare così. Ali oscillano in fioco cielo. Ali, questa parola ali non è accompagnata da alcun articolo e da alcun aggettivo dimostrativo, cioè sono ali, non le ali, queste ali, quelle ali. Questa indeterminatezza lessicale è tipica della poesia ermetica. In fioco cielo non c'è un o quel o nel, ma in ali oscillano in fioco cielo, no? Sia ali che cielo sono lì, sostantivi indeterminati, labili. Qui è evidente l'effetto di suono. Ali oscillano, labili, ali, labili oscillano. Queste sono parole effettivamente scelte più per il suono che per il senso. Le ali labili, che cosa vuol dire? Potrebbe alludere ad una improvvisa apparizione di indeterminate ali che immediatamente scompaiono, inghiottite dalle nuvole o dalla lontananza. Ecco, la poesia, diceva Paul Valéry, è una perpetua esitazione fra il suono e il senso. Qui i cretini dell'Invalsi metterebbero la domandina: in me si fa sera, che cosa significa questa metafora? Il poeta ha perso il treno. B, il poeta è molto contento. C, il poeta è molto triste. D, il poeta saranno cavoli. Vabbè, comunque, dice: il cuore trasmigra. Cosa vuol dire il cuore trasmigra? Questa è una metafora che allude al desiderio, perché trasmigrano gli uccelli. Beh, il cuore trasmigra vuol dire il mio desiderio, la mia anima, il mio pensiero si proiettano altrove, immaginano altri luoghi, altri tempi, altre situazioni, altre realtà. Se i giorni sono una macerie, cosa vuol dire che i giorni sono una macerie? Evidentemente il poeta rimpiange il tempo passato, no? Se i giorni sono una macerie, vuol dire che il tempo andato ormai è irrecuperabile, quindi una sensazione così di rimpianto per ciò che è stato. Anche questo è un senso, anche qui c'è un senso vagamente. Già anche questa ellissi, cioè i giorni, sottinteso, sono una materia, no? Ed io sono gerbido, e i giorni sono, sottinteso, una materia. Quindi queste parole indeterminate e queste ellissi anche sottolineano, contribuiscono a dare un senso di indeterminatezza, di fluttuazione, no? Il flou, come si dice in francese, cioè lo sfumato, che è tipico della musica di Debussy, che è la chiave migliore per comprendere questa poesia così primo-novecentesca. Allora, vento a Tindari. Le antologie ormai non lo. A qui avete anche le note per la parafrasi, non le ho fatte io, anche se fare la parafrasi della poesia ermetica è una cretinata, se uno vi dice fai la parafrasi della poesia ermetica, potete, beh, cioè, non ditegli che è un imbecille, perché magari in un esame non è molto indicato dare del cretino all'esaminatore, nella fattispecie poi sono io che non mi offendo neanche, ma non vi chiedo neanche di fare la parafrasi. Miteti sofra, larghi colli, pensile sull'acqua, e quando di salgo vertici, aerei, precipizi, come fai a parafrasare? Ma parafraso sto cavolo. Vabbè, comunque, dice Tindari, no? Tindari, un luogo caro al poeta, un luogo che ricorda la Sicilia natia. Miteti sofra, larghi colli, pensile sull'acqua, cioè come sospesa sulle acque, mite ti so, cioè vuol dire conosco la tua dolcezza, il tuo tepore, il tuo clima favorevole, insomma, la tua amenità. Ecco, qui si rivolge ad un luogo, no? Dell'isole dolce del Dio, oggi m'assali e ti chini il cuore, cosa vuol dire? Mi invade improvvisamente il ricordo e la nostalgia di te. Perché il poeta si trova in Lombardia e c'è questo senso che hanno molte persone provenienti dalla Magna Grecia, no? Trasferendosi al nord, vabbè, molto banalmente soffrono per il clima più rigido, il paesaggio molto più monotono, hanno la nostalgia del loro sole, del loro mare. Sembra quasi un discorso un po' retorico, ma insomma. Per capire la poesia bisogna appunto assumere il punto di vista del siciliano emigrato al nord, che ha nostalgia del sole, del mare, questo vento del sud forte di Zagari, verso splendido di Quasimodo, questo vento del sud forte di Zagari. Le Zagari sono fiori che hanno un profumo caratteristico. Ma il nome è particolarmente evocativo. Anche D'Annunzio nel libro segreto scrive la Zagara, odo il nome, sento il profumo. Veramente io non ho mai sentito il profumo delle Zagare, ma mi è sempre rimasta questa curiosità. Comunque salgo vertici, aerei, precipizi, assorto al vento dei pini, e la brigata che, cioè, ecco, vedete, vertici, aerei, precipizi, qui è sottinteso un che sono come, no? È un procedimento stilistico che viene indicato come agglutinazione, cioè quando un termine viene proprio unito senza nessun nesso esplicito al proprio termine di paragone. I vertici, cioè praticamente le pendici di questo colle su cui si inerpica il poeta con i propri compagni, sono paragonati a dei precipizi aerei, nel senso di fatti d'aria, ma anche aereo nel senso latino di elevato, sospeso nel vuoto. assorto al vento dei pini, e la brigata, cioè assorto al vento dei pini, vuol dire intento ad assaporare il profumo dei pini portato dal vento, e la brigata che il lieve mi accompagna, cioè gli amici che sono con me, che sembrano anch'essi lievi, cioè leggeri, insomma, in questa ascesa, in questa salita, un po' come Petrarca che sale sul Mont Ventoux, ecco, no? Il Monte Ventoso. Mi viene in mente effettivamente Petrarca, la ascesa al Monte Ventoso. Insomma, veramente Petrarca fa molta fatica a salire, si sente pesante, invece il fratello Gherardo sale come insomma. Sale così senza nessuna difficoltà, no? Perché Gherardo aveva un'autentica vocazione religiosa, era un monaco serio e ligio al regolamento, mentre, alla regola, mentre Petrarca era ancora invischiato da affetti e passioni, ecco, quanto mai terreni. Anche se tutti lo ricordano come poeta platonico, così casto per eccellenza. Allora dice: s'allontana nell'aria onda di suoni e amore, no? La brigata si allontana nell'aria onda di suoni e amore, cioè come se gli amici fossero divenuti puro suono. Anche le figure degli amici che l'accompagnano sono come sfumate, si sono come dissolte in un puro alone sonoro, un po' come accadeva nella poesia nel poemetto di, o meglio nell'igloga di Mallarmé, no? L'après-midi d'un faun, il pomeriggio di un fauno che vi ho fatto leggere. E tu mi prendi da cui male mi trassi, e paure d'ombre e di silenzi, rifugi di dolcezze un tempo assidue e morte d'anima. Si rivolge sempre a Tindari, dice, da cui male mi trassi, vuol dire, da cui mi è dispiaciuto, è stato molto doloroso allontanarmi, e paure d'ombre e di silenzi, rifugi di dolcezze un tempo assidue, cioè qui si allude alla malinconia che è legata al ritorno, insomma, uno torna nei luoghi da cui si è dovuto allontanare, ma sa che dovrà nuovamente partire. Quindi la gioia del ritorno è accompagnata dalla malinconia legata all'idea che poi dovrà ripartire. Morte d'anima, no? Questa espressione è rimasta celebre, morte d'anima, cosa significa esattamente morte d'anima? Un senso di tristezza, di nostalgia legato alla lontananza da questi luoghi a cui il poeta è temporaneamente tornato, evidentemente per una vacanza. A te ignota è la terra ove ogni giorno affondo e segrete sillabe nutro. La terra è la Lombardia, insomma, Milano, no? Dove il poeta si era trasferito per lavoro. Dice: questa terra in cui ogni giorno affondo, perché evidentemente, ecco, Quasimodo non amava, come è ovvio, il lavoro di geometra, il lavoro, anche perché era un lavoro molto, era un lavoro anche faticoso, insomma, lui doveva sempre fare queste perizie, insomma, non era così un impiego leggero, come era invece quello di montare al gabinetto Fieschè, dove, insomma, aveva tempo di leggere, di studiare, di scrivere. Il povero Quasimodo era proprio il tipico emigrante a cui toccava sgobbare sul serio. Allora, ogni giorno affondo, dice, la terra ogni giorno affondo, cioè qui si allude alla difficoltà della condizione dell'emigrante, e dice: e segrete sillabe nutro, vuol dire, qui si allude al fatto che il poeta deve coltivare la propria arte, coltivare la propria poesia quasi di nascosto, segrete sillabe, quasi strappando, sottraendo tempo al lavoro che gli dà da vivere. Questa purtroppo è una condizione che, insomma, molti, se non quasi tutti, non dico poeti, dei poeti ne nascono due o tre in un secolo, ma diciamo così, i facitori diversi, ecco, una condizione che molti facitori diversi devono affrontare, purtroppo. Altra luce ti sfoglia sopra i vetri nella veste notturna, e gioia non mia riposa sul tuo grembo. Non mia, notate questo sintagma, cioè questa espressione, no? non mie, non mie, ecco, non mie, prima c'era gioia di foglie perenni, non mie e smemora, qui non mie, gioia non mia riposa sul tuo grembo. Tipico esempio di straniamento, no? Il poeta che vede se stesso come un altro, dice, fra l'altro c'è anche qui gioia non mia e là c'era gioia di foglie perenni non mie, perché gioia non mia? Evidentemente il poeta vede se stesso come un altro, c'è cioè una sorta di sdoppiamento del soggetto lirico che quasi narcisisticamente vede la propria immagine riflessa, per così dire, nello specchio del pensiero, ecco, per dirla così. Queste frasi che non vogliono dire però insomma sono suggestive. Comunque, no, sul tuo grembo, allora qui tuo grembo è sempre il grembo della terra natale, il grembo della Sicilia, insomma, no, questa idea della madre terra con il suo grembo, no, è un'idea vagamente foscogliana, no, sui sonetti, dice, Zacinto mia che te specchi nell'onda del greco mare, dice. Tu non altro che il canto avrai del figlio, materna mia terra. C'è qualche un fondo così foscogliano, è un po' come se, no, se Tindari fosse per Quasimodo, no? Un po' quello che Zacinto era per Foscolo, cioè una sorta di patria perduta, no? D'altra parte la grecità, il ricordo della grecità è molto, molto forte in Quasimodo, che in fin dei conti era magno greco, no? Siciliano. Come è noto, Quasimodo tradusse i lirici greci. Anzi, sarebbe anche interessante leggere qualche traduzione mettendola a confronto con il testo originale, ma insomma è un lavoro lungo, meticoloso e che interessa davvero a pochi. Ma ecco, i libri di solito dicono Quasimodo non sapeva il greco, quindi si basò su traduzioni preesistenti, si fece aiutare da una professoressa. In realtà lo studio dei manoscritti di Quasimodo testimonia che con grande pazienza, con grande umiltà, Quasimodo studiò da solo il greco e addirittura dai manoscritti risultano confronti fra dizionari diversi. Scelte meticolose, lunghe riflessioni, ripensamenti, correzioni, quindi non è assolutamente vero che Quasimodo non sapesse per nulla il greco e si fosse basato su altre traduzioni. Non ne aveva una conoscenza perfetta, ma si confrontò e come con il testo greco. Quindi anche questa idea di Quasimodo, così, traduttore dilettante, improvvisato e quindi infedele, deve essere corretta. Proprio i manoscritti di Quasimodo, che sono conservati a Pavia, testimoniano che nel suo lavoro di traduttore da varie lingue, dal francese, dall'inglese, dallo spagnolo, addirittura dal rumeno, perché tradusse anche Tudor Arghezzi, grande poeta rumeno. Ecco, in italiano, addirittura traducendo dal rumeno, Quasimodo si procurò dei dizionari, lesse attentamente il testo originale, ci sono appunti in cui Quasimodo si chiede, ma questa parola rumena, come è meglio tradurla? Ci sono elenchi di sinonimi. Questa idea di Quasimodo, traduttore dilettante, improvvisato, un po' cialtrone, ecco, deve essere sicuramente ribaltata, perché le sue carte rivelano invece una grandissima attenzione e un lavoro quasi maniacale. Aspro è l'esilio. Abbiamo anche la testimonianza del figlio, no? Quale attesta che addirittura durante la notte, no? Quasimodo che lavorava di notte, come fanno poi quasi tutti i letterati, svegliava la povera moglie e la costringeva a sfogliare un grande numero di dizionari per aiutarlo nel lavoro, no? E doveva dirgli, questo dizionario traduce questa parola così, quest'altro la traduce in un altro modo. E bisogna pensare a questa povera donna svegliata nel cuore della notte da Quasimodo, costretta a scartabellare dizionari di greco, di latino, di inglese, francese, rumeno. Insomma, d'altra parte, se una sposa un poeta, poi se lo tiene così com'è. Dice: aspro l'esilio e la ricerca che chiudevo in te d'armonia oggi si muta in ansia precoce di morire. Aspro è l'esilio, ovviamente, la lontananza del migrante dalla terra natale. C'è la ricerca di armonia, questa è una grande idea foscoliana, soprattutto l'armonia vince di 1000 secoli il silenzio, ma forse ci sono radici ancora più antiche, viene in mente Pitagora, cioè una grande idea pitagorica profondamente radicata in questa cultura della Magna Grecia. Dice, oggi si muta in ansia precoce di morire, cioè, c'è questa idea di armonia perduta, infranta, che si traduce in angoscia, in smarrimento. E ogni amore è schermo alla tristezza. Cioè, insomma, Quasimodo ebbe varie vicissitudini amorose, insomma, aveva un temperamento molto, molto focoso, ebbe vari amanti, fra cui Sibilla Aleramo, ecco, Sibilla Aleramo, che ebbe molti amanti, insomma, no? Cosa che per l'epoca era considerata scandalosa. E beh, fra i propri amanti annoverò sia Dino Campana che Salvatore Quasimodo. Sono state pubblicate le lettere d'amore intercorse fra, beh, sia quelle fra Dino Campana e Sibilla Aleramo, sia quelle fra Sibilla Aleramo e Quasimodo. Beh, si tratta di un epistolario erotico, un epistolario amoroso, ma anche erotico, insomma, con dettagli a volte anche. Molto molto accesi, molto così arditi anche, no? Cioè, ogni amore è schermo alla tristezza, cioè vuol dire io passo da un amore all'altro, da una relazione all'altra, da un'avventura all'altra, soltanto per trovare uno schermo alla tristezza, cioè come per colmare questa malinconia, come si dice, eludere questa malinconia che mi deriva dalla lontananza, dalla mia Sicilia, insomma. Vabbè, questa è un po' una scusa. Dice, ma come? Ma mi hai tradito? E me che cosa vuoi? Ma io ho nostalgia qua di Tindari, ho nostalgia dei templi greci, là, quindi cosa vuoi? Io devo pure distrarmi un po', insomma. Tacito passo nel buio dove mi hai posto amaro pane a rompere, no? Tacito, cioè vuol dire no, amaro pane a rompere, vuol dire, insomma, mi è toccato andare a Milano per lavorare, amaro pane, perché no, si tratta di un pane che io guadagno svolgendo un lavoro ingrato. Potrebbe essere una citazione dantesca, no? Tu sentirai siccome sa di sale lo pane altrui, e come duro calle lo scendere il salir per le altrui scale. Tindari serena torna, soave amico mi desta che mi sporga del cielo da una rupe, e io fingo timore a chi non sa che vento profondo mi ha cercato. Cioè, qui viene in mente Paul Valéry, no? Il cimitero marino, le vent se lève, il fortenté de vivre, no? Il vento si alza, bisogna tentare di vivere, e quindi, no? Il vento che è come un richiamo alla vita, alla necessità di affrontare la vita. E allora dice, no? Un gentile, un dolce amico mi scuote dalla mia reverie, no? Dice, io fingo di essere spaventato da questa rupe, da questo precipizio, no? Salgo vertici aerei, precipizi, A chi non sa che vento profondo mi ha cercato, qui il verbo cercare è usato proprio in senso in accezione dantesca o comunque arcaica, antica, che mi ha fatto cercare lo tuo volume, no? Come dice, valgami il lungo studio e il grande amore che mi ha fatto cercare lo tuo volume. Cercare, non nel senso di cercare una cosa per trovarla, ma cercare nel senso di scrutare in profondità. In spicio sarebbe, no? Volendo rendere in latino. Quindi questo vento profondo, no? Dice il poeta, ha come sondato, scrutato le profondità della mia anima. È come fatto riemergere dalle profondità del mio io, della mia coscienza, ricordi, sensazioni, rimpianti e nostalgie che credevo dimenticati. Ecco, questo ci potrebbe, il vento profondo, perché il vento è profondo. Questo è un po' come una ipallage, se vogliamo, perché non è il vento che sia profondo, casomai l'animo del poeta che è profondo. E simbolicamente questo vento di Tindari tocca e così e sconvolge, scuote, ecco, i recessi dell'animo del poeta e ne fa riemergere queste risonanze e questi echi sopiti e remoti. E si potrebbe citare Eraclito o Eraclito, se preferite, no? Tu non potrai mai perlustrare, tu non potrai mai toccare i confini dell'anima, tanto profondo è il suo logos, il logos dell'anima, si intende, no? Che vento profondo mi ha cercato, non si potrebbe commentare meglio il verso. Se non citando proprio quel frammento di Eraclito, che se vogliamo, proprio per la sua grande concisione e per la sua proverbiale oscurità, tanto che veniva soprannominato proprio l'oscuro, L' oscuro con la O maiuscola, potrebbe essere considerato proprio un lontano precursore di questa poesia ermetica. Insomma. Vabbè, qui avete queste noticine per la parafrasi, ma insomma, vabbè, sono un po' banale, se vogliamo, perché se vuoi. Comunque, allora, dobbiamo ancora parlare di Montale e di Saba. Dov'è finito Saba? No, sto guardando qui la cartella che ho nel mio computer qua. Ho fatto un po' di confusione, ma insomma. Ah, qua dobbiamo. Beh, comunque, come dice il Vangelo, a ciascun giorno basta la sua pena, ecco, quindi avara pena tarda il tuo dono, come dice Quasimodo, quindi che cosa devo dire? Beh, ormai dai, è durata quasi un'ora sta cosa, quindi a risentirci prossimamente. Interrompi la registrazione.